l'americano Martial Cantarell, ormai protagonista indiscusso di questa scena minimal wave, che recupera gli umori della wave degli anni Ottanta, chiaramente contaminata dall'elettronica odierna, e che vede lui e tanti altri artisti veri e propri protagonisti di una scena in continua espansione. Dall'omicidio di Renato Biagetti, sabato 1 settembre, concerti, performance, mostre, spazi informativi. Con rabbia e con amore e con Renato nel cuore. Info www.renoise.org. Renoise 2012. Genova non è finita. Il 13 luglio arriverà in Cassazione il processo per le 10 persone condannate per devastazione e saccheggio a seguito delle manifestazioni contro il G8 di Genova 2001. Costruiamo insieme una campagna che non permetta che siano 10 capri espiatori a pagare per le nostre lotte. Costruiamo insieme momenti di solidarietà e vicinanza per la libertà di tutte e tutti. Genova non è finita. Per sostenere la campagna, sottoscrivi al conto corrente postale 6180 4001, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00185 Roma. Causale Genova Cassazione. Aderisci alla campagna, partecipa, diffondi i materiali per la libertà di tutte e tutti. Prila www.10x100.it. Genova non è finita. E chiaramente andiamo anche ad aggiungere, per chi volesse scrivere ai due compagni che sono attualmente in carcere, Marina Cugnaschi presso Casa Circondariale San Vittore, Piazza Filangieri 2, 20123 Milano, e il nostro Alberto Funaro, Casa Circondariale Capanne, via Pieva Iola 252, 06132 Perugia. E questi tristi indirizzi sono anche rintracciabili sul sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info. Loro sono i Killian Kamen, estratti da questo ultimo EP, si chiama Immortal, naturalmente per l'etichetta di Lipsia Out Outline. Un Immortal che in parte si discosta da Night Glory, un album decisamente più accattivante e più, come dire, orecchiabile rispetto a queste tracce che in parte ci riportano al egregio passato di Killian Camera. Questa è 1982, diciamo una traccia non cantata, come lo sarà anche la successiva Sitchin B Immortal Hybrids. We'll be right back. Killian Camera di Angelo Bergamini, progetto storico di Electro Goth Industrial proveniente da Parma, esistente ormai da più di 30 anni. E che ha avuto anche delle fasi diverse, ovviamente, perché in 30 anni può accadere della propria carriera. E questo è Immortal, questo extended play che esce per la Teutonica Out Online. Ancora un saluto ad Enrico, che sappiamo non esattamente affine a questi suoni, ma che riesce a resistere. Il che ci induce ad abbracciarlo ancora una volta. E adesso andiamo a rispolverare un vecchio progetto a metà tra Spagna e Germania, si chiamavano Calva y Nada. Questi sì, veramente alfieri dell'Electro Goth degli anni 80-90. Questo è l'ultimo album ormai del 98, poi credo si siano sciolti, si chiamava Schlaff. Ci andiamo ad ascoltare Profanación e la terza traccia, Alicia. Thank you. la reina è gorla, e il re se fuga, e il conejo soborna, e il león se desnuda, Alicia en un país de moral. La cafetera huye destruyendo, los naipes se mezclan con lo bueno. Lo bueno es lo malo, lo malo es mejor. Lo bueno es lo malo, lo malo es mejor. Lo sientes corrompido. Oh, bueno. Allora, stiamo seguendo in questi giorni le questioni riguardanti la Ilva di Taranto e a tal riguardo abbiamo qualche novità. Ci sei all'ascolto, Salvatore? Assolutamente sì. Dici tutto. Saluto a tutte le compagne e compagni in ascolto. Allora, vabbè, in realtà non sono molte, cioè sono due, una del Consiglio dei Ministri e uno per quanto riguarda, oggi c'era il riesame, no? Per quanto riguarda la questione del blocco all'Ilva. O per quanto riguarda il Consiglio dei Ministri, diciamo che hanno snellito le pratiche per l'erogazione di 366 milioni che avevano già deciso praticamente il giorno dopo, insomma quasi, il blocco dato dal magistrato, quindi rientra credo nel programma di interventi straordinari sulle province. E l'intervento, stando insomma a quello che più viene uscito, dovrebbe essere delegato al rione Tamburi, che è il rione in realtà vicinale all'Ilva, insomma è affiancato all'Ilva. Sì. Questo è uno, ovviamente poi nel merito bisognerà un po' leggere, credo che questo sia una sorta di snellimento burocratico, no? Mm-hmm. Come dire. Sì. L'altro elemento però è una semi-novità, nel senso che dunque c'era stata una richiesta per dividere la decisione del riesame fra gli arresti domiciliari, era stato chiesto dal PM argentino che si decidesse oggi sugli arresti domiciliari e il 15 settembre per quanto riguarda la questione del blocco Ilva. Sì. Diciamo, i giudici del riesame hanno detto no. Fino a poco fa, insomma, che c'è un'oretta fa, non era uscito alcunché, ma si vocifera, insomma, quindi vi riporto ovviamente questa voce, insomma, proprio da un punto di vista giornalistico, che è possibile che decidano domani, sì, o lunedì addirittura, insomma. Tieni presente che comunque entro il 9 il riesame deve dare una risposta, entro il 9 agosto deve dare una risposta. Questi sono per adesso gli unici elementi di novità, altro di grosso non c'è per adesso, quindi una sorta di stand by. Ho capito. Punto, mi dispiace non poter aggiornare l'altro punto di vista, io più tardi ci vediamo qui con questo comitato, insomma, che abbiamo costruito un'assemblea, credo, no? Pezzo di manifestazione, sì, e lì vedremo se ci sono altre novità, eventualmente pure domani ci sentiamo, vediamo un attimo. Dicevo, anche eventualmente su prossime iniziative, anche se oggettivamente sono un po' condizionate un po' da questo tipo di decisioni, soprattutto del riesame, questo mi sembra, certo, evidente pure, certo, per come muoversi, è chiaro, no? Quindi, sì, sì, sì. Va bene, tutto qui. Va bene, allora ci no, no, vabbè, comunque era importante risentirci, certo, certo, e ci risentiremo, no, in futuro. Assolutamente, assolutamente sì, quindi anche domattina, non lo so, ripeto, però potrebbe anche essere che ci sia qualche novità. Va bene? Va bene, Salvatore, ti ringrazio e buona giornata. Un abbraccio forte a tutti voi. Anche a voi, ciao. grazie, ciao. We'll be right back. E intanto siamo passati al Canada, esattamente a Vancouver, con questi Frontline Assembly di Bill Lebb. Anche questo è un vero e proprio punto di riferimento, al pari di Calvainada, per quanto riguarda la scena EBM. Questo era un lavoro del 2001 che si chiamava Epitaph, dal quale abbiamo estratto Hello, questa Dead Planet, sulla quale andiamo anche a salutare Winchicala in ascolto. E intanto si sono già fatte le 16:42 dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, con Disorder ancora per circa una ventina di minuti. In questo ultimo appuntamento per quanto riguarda questa stagione, per andare poi a riprendere presumibilmente fine agosto la radio stessa, probabilmente anche osserverà un periodo di tra virgolette riposo, tenendo conto poi le questioni che ci coinvolgono direttamente non. ...0649-1750 il contatto telefonico e il sito internet anche per usufruire dello streaming www.ondarossa.info. Alziamo un po' i toni e torniamo in America con i Converter di Scott Sturgis, un album del 2000, si chiama Firebloom e questa traccia è la quarta dal nome Error. si chiamano Converter, provengono dagli Stati Uniti. È un po' di tempo che non li sentiamo, almeno sotto questa cosiddetta ragione sociale, che poi Scott Sturgis ha preferito intraprendere una strada artistica diversa da questa. Un vecchio album di Converter, Firebloom del 2000, dal quale abbiamo estratto Error, sulla quale andiamo a salutare Fabiola in spiaggia e con i Converter in sottofondo, niente male. E il buon Stefano, piacevole incontro dopo molti anni di assenza reciproca. In questi ultimi minuti rimaniamo più o meno in queste, con queste atmosfere, e andiamo un po' a setacciare questa compilation che si chiama Form of Ants 2012, in riferimento all'omonimo festival che si tiene ogni anno in Germania, più o meno nel mese di aprile, e che racchiude tutti, molti almeno, dei progetti che fanno capo a questa label di Dortmund, fondata da Udo Wiesemann di Winterkalte. E oggi ci andiamo ad ascoltare inizialmente i Nullgrad tedeschi, ovviamente, con Enster in Einander Wald. Il cosiddetto bello della diretta, un CD che torna indietro e ricomincia da capo. Speriamo bene nella replica. Sempre Nullgrad da capo, in fondo. Erano passati un paio di minuti. Ce lo risentiamo ben volentieri comunque. Einstein in Andere Wald, un scherzo finale, anzi mediano, come si suol dire, da Jack il brano, dura circa 4 minuti. Nullgrad. Ci chiedono lumi sui Converter. Converter, abbastanza chiaro, Converter. L'album si chiama Firebloom. Se poi uno va a vedere siti, per esempio Discogs, tanto per non fare nomi, in cui ci sono le carriere di tutti questi artisti, si può anche vedere meglio le tracce e i titoli stessi. Mi rendo conto che poi, se l'artista non si conosce, è anche difficile memorizzare un nome tipo Converter e un disco tipo Firebloom. E questi sono i Nullgrad. Nullgrad. Reminiscenze anche house in questi Nullgrad. Al loro attivo soltanto un album per la Hans Productions di Dortmund, e qui invece in questa compilation abbiamo estratto Einstein Underwald. Rimaniamo sempre in Germania, questa volta con 60 Pad Noise Terrorist, il 50% degli Scat. Qui le atmosfere sono leggermente diverse, un po' in sospensione tra IDM e Rhythmic Noise. Questa è una traccia che porta il nome dell'anno che stiamo vivendo, e quindi 2012. 60 Pad Noise Terrorist. Yeah.